Mix 24 di Giovanni Minoli. Il meglio di Amalia Ercoli Finzi, milanese di formazione bergamasca per scelta. La radice del suo nome, Amalia, significa laboriosa, energetica, esattamente così. Prima donna a laurearsi nel 62 in ingegneria aeronautica, sposata, 5 figli, 6 nipoti, un cane. La sua testa è tra le volte celesti, i suoi piedi sono ben piantati a terra. Professore ordinario di meccanica orbitale al Politecnico di Milano, medaglia d'oro dell'Associazione Italiana di Aeronautica, colonna portante del Consiglio Scientifico dell'ASI e del Consiglio Spaziale Europeo per l'esplorazione di Marte. L'imprevisto fa parte della sua quotidianità. L'universo è praticamente la sua seconda casa e dove c'è una sonda spaziale c'è lei. Segue da 20 anni la missione Rosetta. Lei è l'ideatrice e la responsabile del Trapano SD2 che oggi sta lavorando a 470 milioni di chilometri dalla Terra sulla cometa Rosetta per scoprire l'origine del sistema solare e sogna di scoprire se la vita sulla Terra arriva proprio dalle comete. È anche la prima donna a usare diamanti, platino e zaffiri per costruire un trapano. Allora, professoressa Finzi, un diamante per fare un trapano che opera su una cometa, non è una follia? Assolutamente no. L'impresa è talmente importante che il diamante ci voleva. Chiaramente è un diamante sintetico. Senta, ma lei un diamante l'ha mai avuto in regalo? L'ho avuto, ma non così bello come questo. Ah no, eh? Ma quel diamante, quanto vale quel diamante là? Quanto vale la cometa, quanto vale la missione, questa vale moltissimo. Vabbè, intanto, lei il diamante l'ha usato per fare il suo trapano da cometa. Ma mi racconta com'è fatto il trapano, il diamante lo so. Il trapano è un trapano direi ordinario. L'unica cosa è che ha alla fine un tubicino che raccoglie il materiale della cometa o di altri suoli cometari e che poi viene portato nei vari forni per essere scaldato. Ecco, professoressa Finzi, ma la genialità dov'è? Nell'uso, intanto nella tecnologia che viene utilizzata, in particolare nei materiali, e nell'avere sfidato un ambiente assolutamente incognito per fare una cosa che è già complicata da fare anche sulla Terra. Senta, ma quando ha cominciato a pensare, a sognarsi questo trapano? Quando ce l'hanno chiesto per poter effettuare questa missione e subito abbiamo pensato che bisognava fare un'opera d'arte. Senta, è stata convinta da subito che avrebbe funzionato o l'ha capito solo a un certo punto? No, abbiamo lavorato bene, abbiamo sempre lavorato con grande coscienza e c'era la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro. Senta, professoressa, proviamo a rivivere quel momento magico quando la sonda è atterrata e tutto il mondo era lì con voi. Décollage. Di controllo tedesco dell'ESA di Darmstadt ha comunicato ufficialmente l'avvenuta separazione tra Rosetta e il piccolo robot File. Il giorno della cometa è arrivato. L'esplosione di gioia nel centro di controllo dell'ESA di Darmstadt. Scienziati e ricercatori di solito compassati che si abbracciano come ragazzini all'annuncio che il piccolo robot ce l'aveva fatta. Cazzo! Ha toccato. Il lander File è seduto sulla superficie della cometa. Un'impresa che segna davvero un primato. Non ci sono precedenti nella storia dell'esplorazione spaziale. Professoressa, è un'emozione raccontabile? No. Sono quelle cose che ti restano nel cuore e ti daranno una grande serenità per tutta la vita. Senta, a che punto è riuscita a tirare un sospiro e dire è fatta? Quando il lander è riuscito a posarsi finalmente in modo deciso sulla cometa. Ecco, all'inizio siamo stati col cuore in gola. Ecco, in quei momenti di cuore in gola ha pensato alla storia che è piena di gente che dice che le comete portano sfortuna? No. Dicono che portano sfortuna a quelli a cui ha portato sfortuna, quelli che stavano attraversando un brutto momento. C'è una tradizione, no? Sì, sulle comete risale alla storia, alla battaglia di Hastings, quando Harold ha perso nei confronti di Guglielmo. In realtà in molti altri casi le comete hanno portato per esempio a Betlemme hanno portato un simbolo di speranza. Sì, perché era nato Gesù bambino. In realtà non era una cometa. Che cos'era? Una copia collegamento di due, una congiunzione. Ah, non una cometa. Non una cometa. Ah, professoressa Finzi, ecco, delle comete lei non ha paura, ma va alla caccia. Da quando va a caccia di comete? A me sono sempre piaciute le comete, sono una delle cose più belle del mondo. Io dico che il Padre Eterno, quando le ha create, stava sorridendo. Professoressa Finzi, senta, tenere la sua sonda ibernata per 10 anni, fra 2, 8, insomma, quella roba lì, a 480 milioni di chilometri dalla Terra, converrà con me che sembra una fiction. Non è che poi scopriremo che è stato tutto uno scherzo virtuale? Assolutamente no. Noi abbiamo fatto 4 grandi orbite per arrivare fino alla cometa in questi 10 anni, perché non dovevamo intercettarla. Noi dovevamo arrivare vicino alla cometa con la sua stessa velocità. Questo era il segreto. Per far questo siamo arrivati ben oltre i 500 milioni di chilometri, tanto che abbiamo dovuto ibernarla perché troppo lontani dal Sole. Non avevamo neanche l'energia sufficiente per tenere svegli gli strumenti che portava con sé. Senta, ma cosa l'ha convinto a dire a un certo punto, ecco, questo è il momento, svegliamo Rosetta e facciamola atterrare? Questa è stata la decisione dell'ESA, che a un certo punto ha deciso, ed era il 20 di gennaio, che era il momento di svegliarla. In realtà è stato quello il momento più emozionante, perché qui non c'era né non si sapeva? No, assolutamente, non c'erano garanzie che si sarebbe svegliata e avremmo perso la missione. Senta, però purtroppo non tutto è andato come speravate. Che cosa non ha funzionato alla perfezione? Gli arpioni. Cioè? Non siamo riusciti ad ancorare lander sulla cometa, per cui il lander è rimbalzato con una velocità prossima alla velocità di fuga, per cui avremmo potuto perderlo. Ha preso dentro un ostacolo, ha avuto un botto, dopodiché ha fatto un altro volo e alla fine si è rinfognato. Ma per quanto tempo è riuscita lei a far funzionare il suo bimbo, cioè il suo trapano? Tutto il tempo che c'era bisogno, cioè praticamente per 2 ore. Noi abbiamo esteso il trapano alla velocità di 7 mm al secondo e siamo risaliti con una velocità di 13 mm. Ed è stato sufficiente per qualcosa? Abbiamo fatto quello per cui il trapano è stato progettato. Che cosa sia successo lo stiamo cercando di capire adesso. Insomma, cosa state sperando di trovare? I campioni raccolti e soprattutto che cosa c'è all'interno di questi campioni. Cioè, volete trovare i mattoni della vita? Eh? Vogliamo trovare la composizione della cometa. Certo che la speranza di trovare l'origine della vita, i mattoni della vita, questo è un sogno. Professoressa Finzi, adesso aspettate che il Sole sia in una posizione diversa in modo che dia di nuovo energia al lander? Sì, noi aspettiamo che la cometa sia in una posizione diversa, il Sole sta sempre lì, poverino. Sì, per poter dare energia, perché al momento noi vediamo 0,1 soli, cioè un decimo del Sole che prendiamo sulla Terra. E quindi aspettiamo che sia di essere un po' più vicini per poterci scaldare un po' e quindi ricaricare la batteria ricaricabile. Ecco, ma nel vostro progetto i campioni, se la batteria viene ricaricata, vengono esaminati sulla cometa? Assolutamente sì. E come si fa? Il mio strumento porta una serie di fornetti che scaldano questi campioni e li accostano ai vari strumenti che sono collocati nei pressi, perché che provvedono ad esaminarli. E faccio finta di capire, senta, ma fino a quale profondità voi vorreste trapanare la cometa? Noi sappiamo quanto è lungo il trapano che riusciamo ad estendere, che sono 560 mm, e questo dipende dalla distanza da cui ci troviamo dalla parete della cometa, da parete, perché adesso siamo un po' inclinati rispetto alla parete. Più riusciremo ad entrare nel suolo cometario e più materiale riusciremo a prendere. Senta, professoressa Finzi, lei ha detto io sono bergamasca fino in fondo. Cosa vuol dire bergamasca fino in fondo? Perché io mi identifico con molte delle caratteristiche, direi delle doti che hanno i bergamaschi. E cioè? Serietà, voglia di lavorare, attaccamento alla famiglia e grandissimo impegno. Senta, e l'ha aiutata nel suo lavoro questo essere bergamasca fino in fondo? Direi di sì, perché quanto ho lavorato, direi proprio come una vera bergamasca. Senta, lei ha allevato 5 figli, 6 nipoti, un cane, ha sempre lo stesso marito. Qual è il segreto? L'organizzazione. La fortuna di aver trovato le persone giuste, averne fatte anche qualcuno, averne fatte qualcuna giusta, e soprattutto l'organizzazione di una famiglia di questo tipo che richiede decisioni condivise. In una famiglia così grande non si possono dare ordini. Cioè, una bisogna famiglia decidere. Democratica, sì. Assolutamente sì. Forza. Senta, lei però ha detto: gli uomini sono cavalli da trotto, le donne da corsa. Perché? Perché le donne hanno una marcia in più per quello che riguarda una società come la nostra, che è una società multietnica, molto variegata, una società che ha bisogno di intuizione e anche di molto sentimento prima ancora che di intelligenza. È chiaro che tutte e tre insieme, intuizione, intelligenza e sentimento, riescono a dare buoni risultati. Ma io conosco anche degli uomini che ce l'hanno, non è solo le donne. Beh sì, però le donne ce n'hanno di più. Sì, siamo sicuri. Vabbè, io non sono d'accordo, ma va bene. Lei ha seguito decine di missioni. Questa è stata la più importante? Beh, questa è affascinante. È un altro atterraggio sulla Luna. Abbiamo anche dimostrato, di più. Anche di più. Soprattutto l'ESA ha dimostrato, e quindi noi, l'Europa, ha dimostrato di saper atterrare, cosa che non eravamo mai riusciti a dimostrare prima. Dopo questo possiamo arrivare dove vogliamo e quando vogliamo. Beh, una bella libertà, comunque. Sì. Perché in fondo deriva anche, dà della libertà saper fare le cose. Sì, e dà della sicurezza. Professoressa Finzi, senta, gli spettrometri a bordo di Rosetta hanno scoperto che la composizione isotopica dell'acqua che forma il ghiaccio delle comete ha caratteristiche particolari. Cioè, che caratteristiche ha quell'acqua lì? Il problema sono, sono gli atomi, il deuterio, no? L'idrogeno pesante, che ha una certa quantità, e abbiamo in presenza con una certa quantità sulla Terra, e ha una quantità diversa sulla cometa, in realtà tre volte tanto. E quindi questo fa pensare che l'acqua dei nostri oceani non viene dalla cometa, ma probabilmente da qualche cosa d'altro. E qualche cosa d'altro che... Che sono gli asteroidi. Ah, ecco. Sempre del sistema solare, si intende. Mix 24. Senta, professoressa Finzi, lei è stata la prima donna in Italia a laurearsi in aeronautica. Ha trovato tanti ostacoli, è stato difficile? È stato difficile far capire che nonostante fossi una donna ero capace di ragionare. Quando l'hanno capito poi è stato tutto semplice. Da dove nasce la sua passione per lo spazio? Come è successo nell'industria, è un'evoluzione naturale da chi parte dall'aeronautica. Le industrie aeronautiche si sono in molti casi evolute in industrie spaziali. Certo. È il confine ultimo della tecnologia. Certo. Ha avuto figure di riferimento o no? No, la mia preoccupazione era proprio di trovare qualcuno che sapesse lavorare. Io non è che volessi fare carriera. Io volevo lavorare bene, con un carico familiare non da poco. Non da poco, oh, mamma mia. Senta, in casa da ragazza è stata aiutata dai suoi genitori nelle sue scelte o no? I miei genitori avrebbero voluto che facessi matematica, che sembrava loro adatto. Io in realtà ero un ingegnere nato, quindi Senta, è vero che fin da piccola in casa montava e smontava tutte le cose che incontrava? Tutto. Quello che è sempre stata la mia ricerca è capire come funzionavano le cose. Qualche volta ero un po' fastidioso per la famiglia, però l'hanno lo tollerato. Subivano, stavano tranquilli. Senta, professoressa Finzi, lei è una grande scienziata, l'abbiamo detto, ma anche una grande divulgatrice. Ha portato al dottorato 110 studenti che oggi sono impegnati in molte direzioni di ricerca. Quali soprattutto? Molti nello spazio, ma non solo questi. In realtà la formazione che noi diamo come Politecnico e polivalente, e quindi ne ho alcuni che sono andati a fare in tutt'altro campo. Senta, ma sono più donne o più uomini? Oggi più uomini. Ancora? Le donne non sono ancora abbastanza presenti per dare un contributo significativo, però stiamo arrivando. Lei è arrivata, quindi la prova provata. Senta, professoressa Finzi, ho letto che ci sarà una missione che andrà sulla Luna e che porterà il suo nome, Amalia. Quando? Questo non lo sappiamo, dipende dai finanziamenti, però ci stiamo lavorando. Per ora il progetto è fatto e stiamo cercando finanziatori. Lei ha detto: vorrei che ci lavorassero tante ragazze. Perché? Perché è fondamentale che le donne si sfidino, le donne sappiano che sono veramente brave, veramente capaci, ma devono convincersene, e questa è proprio un'occasione buona. Senta, Quanti soldi è costata l'operazione Rosetta? La missione Rosetta è costata 1,3 miliardi, di cui una parte versata dai paesi contribuenti, certo, ai paesi membri che hanno fornito gli strumenti. È considerato che è durata 20 anni e che è stata finanziata dai contribuenti di tutta Europa, in realtà è costata 2 caffè all'anno per ogni contribuente. Ah, 2 caffè, vedo che calcolate tutto sui caffè. Anche il nuovo direttore del CERN qui raccontava di caffè, di quanto costa la ricerca. Mi sembra una bella idea. Senta, chi li ha messi l'ha detto, ma l'idea che nel giro di pochi anni si potrà fare turismo spaziale sta crescendo oppure si è abbandonata questa idea? Sta crescendo ed è una cosa interessante. Forse si vorrà fare di più che non turismo spaziale, ma attraverso i privati arrivare invece a fare missioni spaziali che possano portare veramente lontano. Senta, ma la conquista di Marte rimane un sogno proibito oppure lo vedrà anche lei? Io no. Però è sicuro che è un sogno importante, è un sogno complicato, perché arrivare a Marte vuol dire impegnarci per 2 anni, la missione comporterebbe in totale 2 anni, quindi con tutti i problemi del vivere in un ambiente ostile per 2 anni, però Marte è la nostra ultima meta. Ma perché? Perché Marte è il pianeta quale poteva essere la Terra prima di perdere l'atmosfera. Da Marte possiamo imparare moltissimo di quello che è stata la formazione del Sistema Solare. E poi Marte ha anche qualche segreto. Abbiamo delle cose da svelare e in realtà se non ci andiamo con un equipaggio non riusciremo mai a trovare. Ma segreti di che genere? E per esempio nell'atmosfera abbiamo dei componenti che non si spiegano con le ordinarie analisi di cose, quindi si potrebbe capire chissà cosa c'è su Marte, forse c'è stata vita una volta e perché no pensare che potrebbe esserci una vita microscopica anche adesso. Senta, professoressa Finzi, lei appassiona, ma i detriti spaziali incominciano ad essere un problema? Eh? Altro che. Abbiamo inquinato lo spazio, siamo pieni di... Ce l'abbiamo fatta. Adesso ci sono delle leggi per cui prima di mettere in orbita un oggetto si deve predisporre il recupero delle parti che non vengono utilizzate, quindi non si può più fare, però ce n'è in giro una quantità. E come si fa a affrontare il problema dei detriti, insomma, spaziali? È un problema grandissimo che viene affrontato per mezzo di sistemi di recupero, anche il mio Politecnico si sta lavorando proprio in questo senso, che devono essere asportati o comunque messi su altra orbita o lontana. Cioè bisogna inventare dei grandi aspirapolvere. Più o meno, dei grandi oggetti che catturano questi detriti e poi li mandano, li sistemano in modo tale da non essere più dannosi. Senta, l'Agenzia Spaziale Europea adesso cosa ha in agenda come cose principali? Le missioni che si pensa di fare sono diverse e tante. C'è sempre in agenda l'ISA, una missione che darà un'idea delle onde gravitazionali e che quindi ci darà una conferma della relatività generale. Senta, ma è violenta la guerra per la conquista dello spazio oggi? È violenta nel senso che ancora sulla conquista dello spazio sono ancorati i successi delle nazioni. Quindi in questo momento soprattutto le nazioni emergenti stanno lavorando tanto per dimostrare che anche loro sono brave. E lo sono. È vero che i cinesi sono fortissimi. Stanno andando bene e come si vede stanno recuperando il tempo in cui loro non hanno partecipato e non copiando ma lavorando proprio per quindi inventando. E spesso loro ci chiedono aiuto, in particolare l'Italia chiedono aiuto perché la Cina vuole arrivare, anche l'India sta andando benissimo, il Giappone ci va da sempre e quindi il futuro è un futuro mondiale, quindi la concorrenza lassù però. Beh, più che altro, se vogliamo fare la missione su Marte non la faremo né come Europa, né come Stati Uniti, né come Cina. La missione su Marte è una missione mondiale. Senta, professoressa Finzi, lei ha detto di essere convinta, un po' l'ha anche ridetto, che ci siano germi della vita nello spazio da qualche parte, davvero? Sì. Lo pensa? Sì, ne sono sicura. Ne sono sicura che altrove ci sono forme di vita che però è difficilissimo contattare, proprio perché i tempi di trasmissione dei segnali sono tali per cui noi non abbiamo per ora capacità di recuperarli. Però lassù qualcuno ci ama. Senta, ma la fantascienza le piace? Tantissimo. Sì, più cinema o più letteratura? Letteratura. Ah sì, e chi è il suo preferito? Asimov, ma sono della storia. Senta, professoressa Finzi, le faccio un'ultima domanda. Ed escludere, dire proprio di no, quindi, che ci sia qualche forma di vita aliena che è venuta da fuori sulla Terra? Non è per niente da escludere, potremmo essere stati portati sulla Terra da qualche oggetto, da qualche cometa che ha voluto che qui nascesse la vita, intelligente, perché forme di vita ce ne potrebbero essere tante, ma intelligenti come noi veramente pochi. Pochi, eh? Ma gli alieni di Roosevelt, lei ci crede o no? No. No, quelli niente. Grazie professoressa.